Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di industria italiana e lo facciamo grazie a un libro di Paolo Bricco. Buonasera Paolo Bricco. Buonasera Gianfranco e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. L'Olivetti dell'ingegnere, questo è il titolo del libro. Paolo Bricco è giornalista del Sole 24 Ore. Ha fatto la tesi di laurea, mi sembra, sull'Olivetti. Ho fatto tanto tempo fa la tesi di laurea e poi ho continuato a scrivere paper, saggi e diciamo in questo caso finalmente ho potuto dedicare una monografia a un periodo poco studiato, poco considerato, che è appunto quello dell'Olivetti di Carlo De Benedetti. Ecco, un periodo appunto molto importante peraltro per la storia industriale italiana. Questo libro è di Ettore Molino, sono quasi 400 pagine in cui si racconta una storia che è durata una decina d'anni, mi sembra, un po' di più. Qualche cosa di più, ecco, diciamo che è durata una decina d'anni l'apogeo dell'informatica, nel senso che Carlo De Benedetti arriva nel 1978, fa un grosso operazione di turnaround industriale all'Olivetti, che era tecnicamente fallita, un'azienda senza imprenditore, è un'azienda in gravi difficoltà. Che è comunque una grandissima azienda. Una grandissima azienda che ha avuto appunto il suo periodo aureo con Camillo, ma soprattutto Adriano Olivetti, e che però dalla morte di Adriano Olivetti nel 1960 fino all'arrivo di Carlo De Benedetti nel 1978 è un'impresa senza imprenditore. È un'impresa che viene mantenuta in vita artificialmente dal sistema di Mediobanca e dal sistema dell'IRI, che come dire è uno degli elementi caratteristici del capitalismo italiano degli anni 60 e 70. A un certo punto la situazione diventa ingestibile perfino per Mediobanca e per l'IRI e nel 1978 torna ad esserci l'imprenditore a Ivrea, l'imprenditore nell'impresa. Ecco, Olivetti era diventata grande grazie alle macchine da scrivere, grazie alle macchine calcolatrici, nell'era della meccanica, quella che era l'era della meccanica, in cui era diventata una vera multinazionale con stabilimenti, ma soprattutto con una rete commerciale diffusa in tutto il mondo. Ma aveva poi affrontato la prima era dell'informatica essendo un'azienda senza un capitano, senza una guida, quindi senza una strategia. De Benedetti nel 1978 entra in Olivetti, chiamato appunto da questo comitato di intervento, e Carlo De Benedetti arriva con un'esperienza industriale già abbastanza consolidata. Tra l'altro era stato 100 giorni in Fiat come amministratore delegato. Sì, era stato 2 anni prima 100 giorni in Fiat come amministratore delegato, era stato l'uomo forte di Corso Marconi, dopo 100 giorni aveva scelto di andarsene in discordanza con l'avvocato Agnelli. Qualcuno dice famiglia. Che è stato allontanato. Diciamo così. Qualcuno dice che è stato allontanato, dai documenti emerge invece di più una sua volontà di uscire dalla Fiat, diciamo una scelta divergenze personale. Strategiche. Di certo c'erano divergenze strategiche. Quindi, come dire, ha già un passato da manager imprenditore importante, ad esempio nella Gilardini, l'azienda di famiglia della componentistica. Arriva a Ivrea e fa veramente la sua operazione da imprenditore industriale, cioè prende l'azienda che è tecnicamente fallita, la porta sul segmento dell'industria dell'informatica distribuita e con M20, ma soprattutto con l'M24, fa un'operazione di grande livello, facendo diventare l'Olivetti costantemente fra le prime 10 aziende informatiche del mondo. Ricordiamo, nel 1984 l'M24 è il personal computer più venduto al mondo ed è un periodo, diciamo, aureo dell'informatica che dura fino alla fine degli anni Ottanta. Ecco, come mai poi questo periodo così importante, così in cui l'Olivetti ha acquistato una leadership a livello anche mondiale, come dicevi, come mai poi qualcosa si è rotto? Qualcosa si è rotto innanzitutto per il modello industriale, nel senso che nella seconda parte degli anni Ottanta vanno in crisi tutte le imprese europee di radice fordista, io le definisco così, cioè tutte le imprese europee nate nella meccanica che sono passate poi all'elettronica e hanno avuto un felice approdo nell'informatica distribuita. Ricordiamo Thomson e Bull in Francia, ricordiamo Nixdorf, Siemens in Germania, ricordiamo ICL in Inghilterra. Erano tutte industria di fabbrica che poca alla volta erano riuscite a evolvere dalla meccanica alla elettronica e infine all'informatica distribuita. Nella seconda parte degli anni Ottanta vanno tutte in crisi e nessuna sopravviverà. Con la particolarità l'eccezione dell'Olivetti, che a fine anni 80, secondo una linea storica coerente con una tendenza metamorfica che l'Olivetti in 100 anni ha sempre sperimentato diverse volte, fa una diversificazione felice nella telefonia. Per cui, in sostanza, mentre tutte le altre imprese informatiche europee collassano, l'Olivetti riduce drasticamente la sua attività nell'informatica, ma ha la fortuna di avere uno sviluppo importante nella telefonia. Entrando nell'ambito telefonico con Omnitel, che poi... E con Omnitel, che poi diventerà una subsidiary di Vodafone. Ecco. Vorrei ricordare che nel 1995-1996, che è il periodo in cui si consuma la crisi più violenta dell'informatica olivettiana e in cui anche si preparano le condizioni perché Carlo De Benedetti esca dalla Olivetti. Ricordiamo appunto che anche il titolo di questo libro è L'Olivetti dell'ingegnere 1978, anno dell'arrivo, 1996, anno dell'uscita. Ecco, in quegli anni il pacchetto telefonico di Olivetti, cioè Infostrada per la telefonia fissa e Omnitel per la telefonia mobile, veniva valutato dalle banche d'affari e veniva trattato, scambiato dagli azionisti americani, tedeschi, che si contendevano pezzi della gallina delle uova d'oro, perché si era già capito che sarebbe stato la gallina delle uova d'oro, a cifre che davano poi una valutazione di quell'assetto fra i 40 e i 45 mila miliardi di lire, quindi una cifra monster. Ecco, si può dire quindi che la parabola dell'ingegnere comunque ha tenuto in piedi un'azienda, l'ha trasformata, è riuscito anche a creare valore, come si dice adesso, attorno a questa azienda. Sì, sicuramente ha fatto molto bene i primi 10 anni e poi ha avuto la forza e l'energia, sia in coerenza con il suo principio di imprenditore, industriale, investitore che guarda a molte attività, ma anche in coerenza con una tendenza alla mutazione forte che la stessa Olivetti ha avuto nei 100 anni della tutta la sua vita, della sua esistenza industriale, al cambiamento tramite appunto questa telefonia, che in qualche maniera è una condizione importante di sopravvivenza del, certo, codice culturale olivettiano di lungo periodo. Ecco, questo è avvenuto grazie a due elementi che nel libro emergono molto bene. Da una parte il rapporto con il sistema finanziario, cioè mettere l'Olivetti al centro anche di una rete di, sì, finanziamenti internazionali. Anche internazionali, infatti non solo nazionali. Dall'altra il rapporto col sistema politico, sì, che ha concesso, diciamo, all'Olivetti prima e anche nella trasformazione in telefonia, in fondo, delle autostrade. In questo senso il rapporto di Carlo De Benedetti con la politica è un rapporto, possiamo dire così, tra virgolette, costruttivo. È un rapporto costruttivo e forte nel deserto, perché una delle caratteristiche del libro è quella di ricostruire i rapporti inediti fra Carlo De Benedetti ed Enrico Berlinguer e la Olivetti e il Partito Comunista. Erano rapporti necessitati, dati dal fatto che nessun altro partito nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, nei partiti minori, avevano idee di politica industriale forte. L'unico partito che si occupava e si preoccupava della frontiera tecnologica era paradossalmente il Partito Comunista, e quindi nasce quella interlocuzione, che è una interlocuzione in qualche maniera appunto nel deserto, ed è un'interlocuzione che si inserisce anche all'interno della tendenza europea di apertura delle politiche dei mercati alla concorrenza a fine anni 80, quando la Commissione inizia a lavorare molto a che i servizi si liberalizzino, i servizi abbiano più concorrenza, e a quel punto l'Olivetti coglie l'opportunità della telefonia mobile dentro un processo diversificativo che però era già iniziato a fine anni 80 per un'intuizione industriale non solo di Carlo Di Benedetti ma soprattutto di Elserino Piol, che è, come dire, il grande mago delle strategie dell'Olivetti, non solo di Carlo Di Benedetti, ma anche prima. Ecco, un altro rapporto più locale, ma significativo, è quello che De Benedetti ha avuto con Monsignor Bettazzi, che era vescovo di Ivrea in quel periodo, che, diciamo così, ovviamente si opponeva alla politica di riduzione del personale, di efficientamento dell'impresa, secondo delle logiche strettamente industriali. Sì. Però comunque è stato un rapporto, possiamo dirlo così, anche cordiale. È stato un rapporto molto stretto, è stato un rapporto che in qualche maniera consente di poter parlare appunto di vedere in questo rapporto una sorta di prototipo, no, dell'imprenditore e del vescovo. Ma perché? Perché naturalmente Monsignor Bettazzi era preoccupato per la riduzione della forza lavoro. Ricordiamo che nel 1978 Carlo De Benedetti, per ristrutturare l'Olivetti, tagliò del 10% tutto il personale, in qualunque funzione aziendale esso vi fosse, dalla dirigenza agli operai, e quindi le persone che venivano accompagnate in maniera morbida, erano altri tempi, non sono quelli di oggi a spesa pubblica zero, ma erano periodi in cui si andava anche in pensione magari a 48-50 anni, ecco, anni in cui adesso quasi si inizia a lavorare, ecco, nel senso, se ci si riesce, esatto, però c'era questa pressione, ed è di grande interesse secondo me lo scambio epistolare inedito continuo che c'è nei 20 anni, perché dà l'idea di un Monsignor Bettazzi che, come dire, è un vescovo di cui conosciamo le posizioni progressiste, ma allo stesso tempo anche preoccupate di conservare il bene primo del lavoro come elemento fondante anche della famiglia e della comunità cattolica, e dall'altra parte invece di un Carlo De Benedetti che sostiene la necessità di applicare le regole, diciamo, del mercato e dell'efficienza industriale anche a costo di fare soffrire qualcuno per evitare che tutti poi soffrano molto di più. Certo, salvare un'impresa nella prospettiva appunto di dare lavoro a quei pochi che possono restare, rispetto a non dare più lavoro a nessuno se l'impresa dovesse fallire. Sì. In questa prospettiva, una logica, diciamo, molto pragmatica. Per concludere, Paolo Bricco, qual è la sintesi che possiamo trarre da questa storia dell'Olivetti dell'ingegnere? Beh, è la sintesi di una storia non italiana ma europea. Una storia di grande forza, come è la forza dell'industria europea, non soltanto italiana. Noi abbiamo bisogno di ricordare che l'identità civile, culturale, prima ancora che economica della nostra Europa è la manifattura e l'alta tecnologia e l'industria. Allo stesso tempo, naturalmente, ricordandone anche le contraddizioni, le luci e le ombre, e sapendo che in ogni caso il nostro futuro è sempre in quella cosa lì: la fabbrica più i servizi, l'uomo più la tecnologia. Ecco, l'uomo più la tecnologia, in fondo, ripercorrere questa storia, riscoprire anche i problemi, le possibilità, le tante difficoltà che ha avuto un'impresa italiana, ma anche la capacità degli imprenditori di affrontare queste difficoltà, magari qualche volta con successo, qualche altra volta con critiche che si possono naturalmente fare. Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, ha scritto questo libro, ve lo ricordo, L'Olivetti dell'ingegnere, edito dal Molino, sono quasi 400 pagine, il costo sono 20 euro. Grazie a Paolo Bricco di essere stato con noi, l'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.